Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Allora, se la tappa di ieri era quella pericolosa e ne ha presi 50 di secondi di ulteriori di vantaggio, oggi si va a vincere. Oggi si va a vincere? Sì. Wow. Infatti vi ho lasciato mutoliti, però sono convinto che oggi Vincenzo va a mettere la ciliegia sulla torta, ha questo nella testa. Stamattina sono andato a trovarlo sul motoromo prima della partenza da Po e aveva l'occhio di quello che ha voglia veramente di completare l'opera. Meraviglia, che corridore, una stagione a sentire malmostosi che lo criticavano, una stagione a sentirsi criticare. Signori, cosa avrebbe dovuto fare? Vince il campionato italiano, fa un delfinato con dei segnali positivi, vince il campionato italiano, con la maglia italiana gli hanno detto ma il tricolore è brutto, e allora vince una tappa, c'è ma c'è il pavé, sul pavé va benissimo, vince un'altra tappa, ma non c'è questo, ma non c'è quello. Signori, a noi questi discorsi interessano poco, a noi interessa dire tanti applausi, Vincenzo Nibali. Vince la sua carta tappa al Tour de France in maglia gialla, seconda vittoria in maglia gialla, Vincenzo Nibali, padrone del Tour. Penso che il Tour comunque è stato bello fino adesso, no? Tutte le giornate che siamo riusciti a passare ci sono stati i momenti più belli delle vittorie, dalla prima fino a quella di oggi, però penso che l'emozione che dà i Campi Elisi non la può dare nessun'altra tappa o nessun altro evento. Questa è la quarta sinfonia di Beethoven, scelta da Franco Piantanini, autore di questo programma. Sentiamolo, sembra la nona, però la quarta sinfonia di Beethoven non a caso. E in questo modo rendiamo onore naturalmente a Vincenzo Nibali, ma anche a Pier Augusto Staggi, al quale ci rivolgeremo ogni volta ci verrà voglia di scommettere. Saluto tutte e due i miei Pier. Staggi, ciao. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao frate indovino. Pierluigi Pardo, ciao. Diga, come va? Molto bene, mi pare, Nibali. Molto bene. Occhi e croce fatta. Senti, Pierluigi Pardo, vuoi chiedere qualcosa a Staggi al Tour? Vabbè, qualche giorno fa gli ho chiesto, erano 10 giorni fa, quante possibilità c'erano, che cosa dovesse fare. Mi sembra, insomma, che sia andata... Ecco, gli chiedo questo, se è stata adesso con tutte le scaramanzie del mondo... ancora più facile e più autoritaria di come sembravano decine di giorni fa. Decine di giorni fa si parlava di un equilibrio che andava mantenuto, del non far arrabbiare nessun seguitore, non far compattare i nemici, ma insomma sembrava tutto ben avviato ma ancora da scrivere. Mi sembra che ci siano state delle prove di forza. Io ci capisco pochissimo, per chi non l'avesse capito, però insomma è così? È il più forte di tutti per distacco? No, Pierre. Sì, è assolutamente il più forte di tutti, tant'è vero che un po' la sua superiorità rende quasi, non dico banale, il successo di Vincenzo, però ha fatto delle cose con grande semplicità come solo i grandi campioni sanno fare. E voi che sapete molto di calcio, che lo frequentate tutti i giorni, ma anch'io che ho goduto nel vedere le gesta di Maradona piuttosto che di Messi, fanno delle cose incredibili, o di Cristiano Ronaldo, con una facilità che dice adesso scendo giù in cortile e lo faccio anch'io. Questo lo fanno solo i grandissimi. Ecco, Vincenzo in questo Tour ha reso tutto elementare, no? Cosa ci vuole? Anche ieri è scattato Horner, dice ma io gli vado dietro, gli è andato dietro, poi l'ha lasciato tutto lineare, non una cosa fuori posto, ma non è così semplice, non è così facile, devi stare devi avere una grande condizione, devi avere una grande freschezza mentale, devi saper muovere la squadra al momento giusto, devi saperti muovere tu nel momento più opportuno, perché è una gara massacrante, è una gara di resistenza a tutti gli effetti, quindi ci vuole lucidità e resistenza al contempo. Oggi possiamo dire che è andato tutto bene. Quando ci siamo sentiti una decina di giorni fa, c'erano ancora tutte le montagne da fare. Ancora presto. Avevamo appena superato i Bivoggi, c'erano ancora le due tappe alpine e le tre Pirenaiche. Il cammino era lunghissimo e gli avversari non ci stavano a prenderle, certo, tutti i giorni. Alla fine poi le hanno prese, però. E adesso... stato molto molto bravo Vincenzo. Ieri abbiamo ricordato i corridori che hanno vinto, che hanno fatto il triplete, no, per usare il gergo calcistico, Tour, Giro d'Italia e Vuelta. E Vincenzo Nibali entrerà in questo club. Esatto, la tripla corona. C'è un'altra suggestione che si unisce a queste: l'unico corridore ad aver vinto 4 tappe vincendo il Tour senza usare il cronometro è stato Piero Augusto, Sua Maestà Eddy Merckx. Intanto c'è una. L'ultimo che ha vinto 4 tappe, ha vinto un Tour de France, è stato Laurent Fignon. Senza cronometro. Ah, senza cronometro. Senza cronometro. Senza usare il cronometro è stato 4 tappe al Tour vincendolo senza usare il cronometro Eddy Merckx. Sì. Intanto tra Piero Augusto Stagi e Pierluigi Parto c'è un altro Pierino che ha parlato oggi, Antonio Cassano. Show in piena regola, con cui show che vi faremo sentire, di cui parleremo poi con Pardo. Pierluigi, sei d'accordo? Sì, tra un po', sì. Sentiamo tra pochissimo con subito dopo il traffico continuiamo il discorso sul ciclismo anche con voi 800 24 00 24, e più tardi con Pardo per farvi sentire lo show di giornata di Cassano. Allora, se la tappa di ieri era quella pericolosa e ne ha presi 50 di secondi di ulteriori di vantaggio, oggi si va a vincere? Sì. Wow. Tutti convocati. D'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France. Ah oui, que piango, mais forte Vincenzo, hai già bisogno di un giocatore, io non sapevo che doveva fare. Non è superbo, non è. Se va a fare vincere a uno, fa vincere senza interesse, senza cosa. È un ragazzo che si fa volere bene da tutti. Vincenzo come me, cioè il mio sta bene, il mio sangue che funziona, perché io in bicicletta non ci so andare e non è mai andato in bicicletta. Questo era Vincenzo Nibali Senior, nonno di Vincenzo Nibali Junior, che sta vincendo il Tour de France e sta così chiedendo a tutti, dimostrando a tutti come il ciclismo italiano in fondo non è poi così in crisi come pensavamo. Ecco il CT, Pier Augusto Stagi, c'è il CT della nazionale. Buongiorno Davide Cassani, buongiorno. Allora, ciclismo italiano è in crisi, eravamo qui tutti a frignare, poi Lampi di Aru al Giro d'Italia, Re Sole Nibali al Tour de France, e adesso ci ritroviamo con l'italiano che vince il Tour de France, la corsa più importante dell'anno, e quindi tutti quelli che da mesi continuano a dire che il ciclismo italiano è in crisi, in crisi fino ad un certo punto, probabilmente è un punto che non pensavamo di raggiungere, Piero Augusto. Ma guarda, in realtà il ciclismo italiano è stato tenuto in piedi negli ultimi 4 anni da Vincenzo, bisogna dirlo. Il corridore di caratura internazionale al momento è solo lui. Poi abbiamo una bellissima nidiata della Nouvelle Vague tricolore guidata da Fabio Aru, e lì credo che Davide Cassani possa sorridere, tutti noi possiamo guardare con un pochino più di serenità al futuro. Certo, ci sentiamo un po' preoccupati per quello che si respira in Italia, per le squadre che chiudono, per le squadre che diventano, quelle italiane che diventano americane, per Inter, quindi una struttura professionistica che sta traballando, quello è innegabile. Guai dire che Nibali con la sua maglia gialla cancella tutto. È vero, Davide Cassani? Verissimo, anzi la vittoria di Nibali deve essere un mattone per ricostruire qualcosa che rischia di non crescere, no? E quindi penso che la cosa importante è, come ha detto Pier Augusto, è quella di guardare avanti. C'è preoccupazione perché abbiamo poche squadre a livello internazionale, quindi minor sbocco per i giovani che possono e devono passare professionisti, e quindi se per l'immediato siamo abbastanza tranquilli, perché dopo Nibali c'è Aru, dopo Aru potrebbe arrivare Formolo per quanto riguarda le corsa tappe, ci sono almeno una decina di giovani ragazzi che hanno 23-24 anni che stanno crescendo molto bene, però bisogna rimboccarsi le maniche e sfruttare tutto quello che di buono ci porta Vincenzo Nibali. Senti, Vincenzo Nibali che è bravo anche davanti al microfono, sai, è bravo perfino a far diventare normale a parole un'impresa che normale non è, come la vittoria di questo tour, Davide. Ma sai, Vincenzo è un ragazzo semplice, è un ragazzo che è partito dalla Sicilia, è approdato in Toscana per raggiungere un sogno. È un corridore all'antica, un corridore che corre per passione, un corridore che gli è sempre riuscito facile tutto. Tra gli junior ha fatto 50 km da solo per vincere un campionato italiano, tra gli under ha fatto un'azione straordinaria con il gruppo a 10 secondi per 20 km, non l'hanno mai raggiunto. Da appena passato professionista ha vinto subito, si capiva che aveva qualcosa di straordinario, e quindi adesso vederlo al Tour de France vincere in Gran Bretagna, dominare sul pavé, vincere sui Vosgi, sulle Alpi e sui Pirenei, sì, rende assolutamente normale quello che di normale ha ben poco. Poi Pier Augusto, c'è quelli che si divertono a seminare i dubbi anche tra gli ascoltatori, leggo gli sms: ah, ci fossero stati Froome e Contador, però non sarebbe stata così con il britannico e lo spagnolo. Altri, in modo più perverso, cercano fantasmi dal recente passato, di un recente passato di cui il ciclismo è pieno. Posso dire una cosa in merito? Certo che puoi, Davide. Cioè, la cosa bella è che Pier Augusto può confrontarmi in quello che dico, è che tu vai dal preparatore atletico di Vincenzo Nibali e ti fa vedere assolutamente tutto quello che altri ti nascondono. È assolutamente alla luce del sole tutto quello che fa. E quindi penso che questo sia una dimostrazione che non c'è nulla di segreto, e tutto quello che è fatto, tutto quello che si vede in televisione è frutto del lavoro di Nibali, sì, e dello suo staff. Ma anche perché non mi sembra che Nibali abbia fatto, dal punto di vista delle prestazioni e anche dei tempi di ascesa. Allora, ieri ha impiegato 3 minuti in più rispetto al 96, 2 minuti in più rispetto al 94, una VAM di 1600, che sono valori assolutamente buoni, ma giustificabili. Cioè non from dell'anno scorso, insomma. No. O no, Pier? No, guarda, perché io non ho delle basi scientifiche, Davide è molto più bravo di me, però come ieri ti ho citato un amico, ed è uno considerato uno dei più bravi tecnici, un Mourinho del ciclismo, perché è veramente molto preparato, è giovane, competente, è diritto. Una delle formazioni più forti al mondo americana, ed è un italiano, ed è Luca Guercilena, che viene dal centro Mapei Sport ed è un grandissimo preparatore, e quindi non ha nessun interesse a dire bene o male, piuttosto sta zitto. E invece lui mi ha detto: ragazzi, piantiamola, questo qua sta facendo vedere dei valori normalissimi, è il più forte, perché certo è verissimo, se ci fosse stato Contador più di Froome avrebbero probabilmente lottato fino a domani nella cronometro, ma anche Contador avrebbe dovuto aspettare l'anima per recuperare due minuti, certo, e mezzo. Ma certo. Non dimentichiamoci che nella tappa di Arenberg, che è quella che ha fatto più male in tutti i sensi, Vincenzo ha dato 2 minuti e 37 e 35 secondi, perché 2 secondi li aveva guadagnati invece nella vittoria inglese a Sheffield. 2 minuti e 35 secondi a Contador. Froome purtroppo era già caduto, si era già ritirato, però lì si è deciso il tour, ragazzi, così sapete quante gare ha perso Vincenzo e nessuno è andato mai a dire ah però Contador perché non c'era Vincenzo. Certamente. Un'ultima cosa per Davide Cassani di queste quattro, di questo poker, quella più significativa, la tappa più significativa secondo te qual è? Ma secondo me quando è arrivato secondo sul pavé lì è stato incredibile, straordinario, sembrava che si fosse allenato sulle pietre per anni, sembrava Cancellara, sembrava Ballerini sul pavè, invece era Vincenzo Nibali. Poi la vittoria di ieri, è andato via 10 km dall'arrivo, ha salutato tutti, penso che quella sia stata la vittoria che ha messo il sigillo in questo Tour de France. Grazie Davide, buon lavoro. Grazie mille. Buon lavoro in maglia azzurra, buon lavoro in maglia azzurra. Piero, un'ultima cosa, ma cosa manca, se manca qualcosa a Nibali per sfondare la porta del cuore degli italiani, degli appassionati di ciclismo, degli appassionati di sport in generale, come hanno fatto alcuni suoi predecessori? Me ne viene in mente uno che conosci benissimo anche tu. Gli manca ancora qualcosa? Ma sai, quello a cui ti riferisci tu, Marco Pantani, era un'altra cosa, perché bisogna dirlo con molta... Pantani era un genio della bicicletta, un genio della regolatezza, un personaggio così, nascono una volta ogni 30 anni, e come dire, adesso costruiamo a tavolino il nuovo Valentino Rossi, non si può, o sei o no. Nibali... Qual è la cosa bella di Nibali? Che Nibali è Nibali e non fa nulla per essere un'altra persona. Esatto. Dice ragazzi accettatemi per quello che sono. Non lo vedremo mai saltare probabilmente su un palco come un pazzo come fa Valentino Rossi o tingersi i capelli, non penso, sarei... magari domenica sarò clamorosamente smentito, ma tingersi i capelli di giallo come hanno fatto i compagni di Pantani, perché Pantani non poteva sentire il pizzetto perché era pelato. Ognuno fa quello che può. Io credo che lui avrà un percorso come è stata la sua parabola agonistica fino ad oggi. Non è esploso subito nel 94, il secondo anno da professionista. Lui ha avuto una crescita graduale voluta da lui medesimo e da chi l'ha seguito e l'ha fatto crescere con calma, sapendo perfettamente che era un talento da tutelare e custodire. È cresciuto anno dopo anno, ha ottenuto il 18, pensa che questo è il suo quarto tour e non ne ha fatti 25, sì. Ha fatto 4 tour, all'esordio è arrivato 18, poi dopo è arrivato 7, poi è arrivato 3 e adesso lo vince. E al Giro d'Italia quasi uguale, no? Si è piazzato una volta 3, una volta 2, l'ha vinto e poi così alla Vuelta. Negli ultimi anni è sempre salito sui 3 gradini del podio. O ha perso o ha vinto, ma era sempre tra i primi 3, sì, sì. Una regolarità disarmante. È un corridore che ti conquisterà quei risultati, perché credo che lui nei prossimi 2-3 anni continuerà a regalare grandi soddisfazioni. Più o meno i risultati ci ha già conquistato, no? Il triplete o la tripla corona, come è ancora più bella chiamarla, è già sul tavolo. Piero Augusto, grazie. Un abbraccio. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ma sono discesa, c'è ancora una crono, però il vantaggio accumulato ormai è importante, quindi l'unica cosa ora bisogna recuperare le forze di oggi, perché se ne è spese tantissime e fare bene la cronometro. Claudio da Como scrive: Cassani degno sostituto del Ballero, Ballerini ci riporterà il mondiale, Contador e From sarebbero dietro lo squalo. Questo scrive Claudio. 800240024 è il numero verde per i nostri ascoltatori, con i quali comincio subito a parlare. Michele, se sapere, siete davvero così sicuro che non si dopi? Allora ragazzi, l'ha spiegato benissimo prima Davide Cassani, questi fantasmi è inutile nasconderlo, aleggiano là sullo sfondo e chi vuole va a trovarli, ok? Il discorso però è quello che ha fatto Cassani, i valori sono chiari e sono valori assolutamente normali per un ciclismo pulito, per un ciclismo di gente che si allena e basta. I valori, i tempi sono quelli che possiamo leggere e sono del tutto comprensibili alla luce di uno sport, nell'ottica di uno sport pulito. Dunque poi pensatela un po' come vi pare, quanto al resto pensatela un po' come vi pare. Andrea, provincia di Modena, buongiorno. Ciao, ciao Carlo, ciao. Scusa se ti do del tu, ma ti ascolto tutti i giorni, sei di famiglia, per cui... E mi fa molto piacere. Guarda, io fatalmente sono proprio cesenatico per lavoro, per cui guarda, proprio un posto più giusto non c'era, visto che si sta parlando di ciclismo. Guarda, io sono contentissimo per Nibali, non è che sono un particolarmente appassionato di ciclismo, però mi piace guardarlo, e Nibali mi sembra il mio vicino di casa, parla bene, a posto, è in ordine, cioè... Però mi dispiace sempre, anche adesso, il doping e l'altro che non c'è. Ma cioè, chi c'è vince, chi non c'è perde. Chi non c'è, ma poi, guarda, lo spiegavamo anche ieri, gli altri non ci sono perché hanno avuto degli infortuni. Ma cavoli, avrà tutta la vita davanti per far vedere che sono fortissimi. Ha vinto lui, è il più forte, gli altri devono tacere. E mi dispiace perché chi dice queste cose mi sembra che sia... tifoso del giornale che non fa altro che sfogliare un giornale, ma di sport non l'ha mai fatto. Sì, perché lo sport è fatto di uno che vince e di altri che perdono. E di altri che perdono per svariate ragioni, perché anche stare in piedi sul pavé, come è stato l'altro giorno nella foresta di Arenberg, è abilità. Se poi uno vola per terra fa parte del gioco. Insomma, il ciclismo di oggi, lo sappiamo, è fatto anche di queste componenti. Maurizio, buongiorno. Pronto? Sì, Maurizio, provincia di Milano. Sì. Ecco. Io volevo parlare un secondo di un bel evento che sta succedendo nella provincia di Lecco, ovvero Lecco città, il campionato del mondo di frisbee. In questi giorni qui sto passando via da Lecco, vedo tanti giovani, tanti ragazzi, tante bandiere, tante nazionalità e un entusiasmo anche questo, come quello che si vede sulle piste del ciclismo o in quegli sport che a me piacciono molto, tipo la pallavolo. Ecco, niente, volevo ricordarlo perché pochi giornali ne parlano. Benissimo, noi lo ricordiamo, quindi provincia di Lecco, campionato del mondo di frisbee. Ci giocavo da bambino, adesso non so se sarei più in grado. Grazie Maurizio, 800240024, la borsa. Tutti convocati. E invece alla fine hai preso una pagella piena di 10, 10 in gol. Tu che mi hai dato? Io l'ho dato 10. Subito. Tu capisci, cazzo. Mi chiama Giamburrasca, e provvero che non è giusto, no. Tu e Balotelli facevate gruppo a parte. No, io facevo gruppo con tutti, in particolar modo con Buffon. Con Gigi facevo dalla mattina alla sera, anzi la notte mi veniva delle volte a bussare per ridere e scherzare. Sì, sì, questa è la verità. Però siccome qualcuno gli piaceva divertirsi, per buttare un po' di fango su di me, è andata perfettamente, però non hanno indovinato la giocata che buttarla addosso a me o a Gigi cambiava poco. A noi non ci cambia niente. Qualcuno si è divertito, sarà qualche sfigato che si è divertito. Giamburrasca, Giamburrasca, eccomi qua. E no, questo non mi va. Ma io non gli devo dare nessuna mano perché ha una grande personalità, un bravissimo ragazzo lui. La cosa schifosa è che in Italia appena si fa una partita normale, perché avrà fatto qualche errore come gli hanno fatto tutti gli altri anche nel mondiale, e questo è lo schifo in Italia, perché se vai d'accordo con i giornalisti e fai il lecchino dei giornalisti va tutto bene. Paletta, siccome è un bravo ragazzo, non dà corda a nessuno, viene massacrato, e questo è lo schifo in Italia. Che non è giusto, no. Giamburrasca, Giamburrasca, sol perché ce l'han tutti con me. C'è stato un episodio che poi non è mai successo, del bicchiere rotto. Quanto ti ha dato fastidio? Del bicchiere rotto? Sì, quanto fastidio ti ha dato? Mi sa che a qualcuno quel bicchiere se l'è bevuto, ma di vino. Può essere, secondo me. Perché è stata una cosa pazzesca. Si sono inventati una cavolata incredibile. Mi chiama. Mi sa che questo lo conosci, Pardo. Lo conosco. Di vista. Sì, di vista. Insomma, mi sembra in linea, no? Con sapevo tutto, quindi cioè, mi ha colpito fino a un certo punto, però capisco che sia sempre uno show, insomma, sicuramente. Sì. Comunque ha sposato il Parma oggi, ha detto resto qui fino alla fine dei miei giorni. Ha tolto un fenomeno. Leonardi fuori classe assoluto, mondiale, totale, tra tutti i dirigenti sportivi e oltre. Ha tolto fango dal mondiale, l'abbiamo sentito, difendendo peraltro Prandelli, questo non compariva nei nostri file, però l'ha detto, insomma, l'han trattato malissimo, hanno detto tutta la colpa è sua, era sua fino a un certo punto. Lui è l'uomo spesso delle cause perse, cioè sì. Io quello che lui ha una particolare tendenza in questo devo dire che io per questo un po' lo stimo, insomma, nel senso che condivido lo stesso tipo di pensiero, che quando qualcuno viene attaccato da tutti o criticato da tutti ed è facile sparargli addosso, lui invece gli lancia una ciambella. Io quello che so è che certamente lui si aspettasse qualcosa di più dal mondiale, al di là del fatto che anche lui poteva fare di più, non ci sono discussioni, però da Prandelli si aspettasse qualcosa di più non ho dubbio. E ciononostante, però, insomma, oggi è arrivata quella dichiarazione lì. Sul resto assolutamente ha confermato quello che mi aspettavo, cioè ne abbiamo parlato tutta l'estate. A me risultava assolutamente che con Buffon non ci fossero stati problemi. Sì. Mi ricordo quel video, secondo me abbastanza incredibile, di Repubblica.it, sì. Che insomma stimo, per carità, ci mancherebbe altro, ma era un video che non ti mostrava nulla, secondo me proprio nulla, di un presunto litigio sull'aereo con Buffon. Era un video assurdo, proprio assurdo, sì. Che non aveva senso. E invece mi risultava che se c'è stata una sua appartenenza a un clan di nazionale era proprio quello di Buffon, di De Rossi, dei giocatori della Juve e del Parma. Questo è quello che mi risultava. E oggi l'ho sentito dire non soltanto privatamente, ma anche pubblicamente. Sì, tra l'altro il secondo frammento che abbiamo sentito, quello in Italia uno schifo, eccetera, eccetera, era riferito a suo compagno di squadra Paletta, peraltro. Sì, ecco, su questo però posso anche dire, glielo dico, magari ci sta anche ascoltando adesso, che poi. In realtà io ho seguito, per dirti, anche l'Inghilterra al mondiale, ci sono paesi dove le nazionali vengono massacrate molto di più che da noi. Da noi semmai c'è questa schiavitù, che è abbastanza tipica del calcio, che è la schiavitù del risultato, che sicuramente viene, si va molto, siamo tutti, mi ci metto anch'io, siamo tutti molto suggestionabili, diciamo così, non diciamo che siamo banderuole, ma siamo tutti molto suggestionabili dal risultato, per cui mi ci metto anch'io. Dopo la partita con l'Inghilterra, grande trionfalismo, poi dopo le sconfitte invece sono volati gli stracci, ci sono stati dei CT massacrati a prescindere, penso proprio a Donadoni che durante l'Europeo del 2008 venne messo in croce e alla fine è uscito ai calci di rigore contro quelli che poi avrebbero vinto tutto per 6 anni. Sì. E quindi insomma, secondo me, da quel punto di vista non sono d'accordissimo, cioè non è solo l'Italia, in Inghilterra i cittadini massacrano, no, ma certo, lo sport nazionale. Però è arrivato il momento di avere un commissario tecnico probabilmente con un po' più di physique du rôle. Questo ricomprende tutto, rispetto a quanto è stato Prandelli e a quanto era anche Donadoni. Vedo parlare il prossimo presidente federale, Carlo Tavecchio. Che dice? Proviamo a sentire. Anche in termini economici, per non far soffrire il nostro mondo. Ma i miei dilettanti, devo dire che noi siamo partiti con un patrimonio ridicolo e oggi abbiamo più di 20 milioni di patrimonio bilancistico che ha potuto far fronte in momento di calamità alle mancate iscrizioni, al calcio femminile che non ha le coperture, ad altre attività. Sta parlando in diretta, conclusione, a chiudere l'assemblea della Lega Nazionale Dilettanti, che è il suo principale bacino di utenza. Intanto ieri è stato incoronato praticamente da De Laurentiis. L'unica possibile insidia per lui era rappresentata, potrebbe essere rappresentata dalla Serie A, non tanto in termini numerici nel voto, nel senso che la Serie A poi non può chiaramente avere la maggioranza da sola, ma insomma è chiaro che la nascita di un fronte politicamente forte a favore dei quarantenni, composto da Milan, Juve, Roma, poteva in qualche modo aprire una breccia in altri mondi, in altre leghe teoricamente più fedeli a lui. E insomma è chiaro che se anche la Serie A alla fine vota per lui, o comunque si divide, ma diciamo non lo umilia, non lo mette in minoranza, a quel punto la sua presidenza sembra scontata. Intanto c'è quell'altro, il signorino di cui sopra, che non era d'accordo con la corrente generale che porterà le nomine di Tavecchio, non è d'accordo tuttora Agnelli. Questo l'ho detto ai miei colleghi durante il mio intervento in assemblea e credo che risponda a una logica di coerenza, quelle che sono state delle riflessioni che ho svolto sui possibili candidati, le ho fatte a Roma un paio di settimane fa, e per coerenza credo che sia anche giusto, voglio dire, su una persona che io non ritenevo idonea ad occupare la poltrona di Presidente federale, non abbia me in Consiglio federale. Da questo punto di vista io sono contento di questo, ho tolto la mia disponibilità. Ha tolto la sua disponibilità così ad accogliere la nomina consigliere. Mi sembra coerente, assolutamente coerente. e mi sembra che poi alla fine il punto sia un punto generazionale che non si può sottacere. Insomma, io credo che sia abbastanza incredibile che il mondo del calcio, in un momento come questo nel quale l'Italia prova a dare dei segnali di grande rinnovamento, decida invece di abbarbicarsi. Al di là del giudizio sulle persone, io non so dare, nel senso, io non so dirti se, se è meglio D'Avecchio o è meglio Albertini, veramente non lo so, perché prima di tutto perché non lo sa nessuno, perché manca la controprova, poi perché li conosciamo poco per avere l'idea di chi possa essere il migliore. Però certo, dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista generazionale, una scelta di questo tipo sarebbe vista come una scelta di conservazione. Ma lo è, dai, Pierluigi, lo è, è inutile stare a girare, è una scelta di conservazione, è la corrente, questa è la corrente di... è lo stesso fiume di Carraro di Diabete e si segue la corrente con Tavecchi. L'unica cosa è che non dimentichiamoci di questo momento e non dimentichiamoci in caso di, ma vedrete, le cose saranno meravigliose, vinceremo il prossimo mondiale in Russia, però in caso di ulteriori problemi non dimentichiamoci di questo momento e neanche di queste parole, come ad esempio quelle di De Laurentiis. È stato votato Tavecchio, quindi a larga maggioranza. Ma siete stati contenti? Sì. Eravate tutti d'accordo? Uniti, diciamo. Ho detto a larga maggioranza. Ma lei è contento? Sì, io sì. L'ha votato. O di quelle di Preziosi, presidente del Genoa. Io? No, sono per Tavecchio. Io. Gli altri lo vedremo. Come mai, presidente? Ma perché sono due anni di transito, secondo me bisogna fare delle cose che faremo e che forse non occorre stravolgere tutto. E poi rinnovarsi. Io credo che la cosa più importante siano i contenuti e non gli uomini, al di là dell'età. Quindi preferisco sempre un vecchio bravo, giovane. Così, arrivederci. Non credo che Albertini possa essere definito un giovane così, ma queste sono le parole e i pensieri del presidente del Genoa. Poi vediamo, stiamo aspettando, no Pier? Stiamo aspettando che queste cose, questo processo di rinnovamento si compia. Sì, stiamo aspettando, secondo me, poi anche il CT è decisivo, nel senso che è chiaro che in qualche modo può essere visto come una conseguenza. Ma il CT deve avere una forza, un'autorevolezza nel rapporto con la Lega. Io continuo a pensare che Conte sarebbe la persona giusta, perché Conte ha denunciato dal punto di vista dal suo punto di vista di allenatore della Juve lo scarso rapporto che esisteva tra federazione, quindi tra allenatore della nazionale e club. E sono convinto che se veramente venisse chiamato lui, ovviamente motivato, si andrebbe a prendere delle deleghe. Andrebbe a rompere le scatole, farebbe quello che ha fatto a livello di impatto come cartello della sua squadra a livello di nazionale, che significa essenzialmente rompere le palle sì, per riuscire ad avere il maggior numero di stage, il maggior numero di maggior possibile coordinamento con i club, che è fondamentale se vogliamo vincere a livello mondiale. Certo. Altrimenti si rinuncia, insomma, poi alla fine io credo che i tifosi italiani sono soprattutto tifosi di club, per cui sì. Alla fine. Ma questo è normale, è fisiologico, anche tutti, corretto. A tutti, ma tu vai al tifoso del Napoli, della Roma, della Juve e ti guarda, adesso ci sono gli stage perché abbiamo il mondiale o l'europeo fra due anni in Francia, il momento caldo della stagione in cui ti stai giocando lo stesso. Sì, no, ma che poi anche alle stesse società, ma anche lo stesso Conte più volte ha avuto questo rapporto conflittuale. Se poi vanno lì a fare l'amichevole, mi si spacca il giocatore, oppure e se adesso ho Vidal che deve andare in Cile o Pogba che deve andare a giocare con la Francia, non mi sta bene. Sono discorsi che continuiamo a sentire. Traffico, poi cominciamo a parlare anche con gli ascoltatori. Vedo Carlo da provincia di Belluno, Sandro da Bergamo, 80024, 0024 numero verde. Ma è vero che sei tu la sorpresa di Ferrero? Che? È un po' di giorni che Ferrero dice... Vi che porta... con la Nutella? No, quella della Sampdoria. Ah, ok. Tutti convocati. Giamburrasca e proverò che non è giusto, no. E no, mi chiamano Giamburrasca sol perché ce l'han tutti con me. E Don Adonis, ma auspicava che tu tornassi già sostanzialmente in peso forma, da questo tipo in peso forma? Ma sì, ci vuole minimo un paio d'anni. Un tale birbaccio. Mi chiamano Ciclone, Tempesta, Cataclisma. Mi chiamano Gian Burrasca e a volte anche Nero. Io mi piace se ti chiamiamo adesso Cassano il Saggio. Cassano? Il Saggio. Il Sarto? Saggio. Oh, ma... Meglio Sarto? Eh? No, ma il Sarto. No, no, il Saggio. No, io... Ci sono le giornate che mi puoi chiamare saggio, delle giornate che sono sclerato, non si capisce in base a come mi sveglio la mattina, io sono così. Cassano sarà la fortuna del Parma, perché quando lui gioca permette di valorizzare altri giocatori che magari senza Cassano in campo non riescono a esprimersi in questo modo. Tu come la vedi? C'ha ragione. Secondo me sì. Gian Burrasca, Gian Burrasca, sol perché ce l'han tutti con me. La vergognosa pagina che c'è stata nei nostri confronti che ci hanno fatto fuori dall'Europa League, io c'ho uno stimolo molto grande, più grande del mondiale dell'anno scorso, di riprendermi quello che mi hanno tolto, perché io mi sono guadagnato per tutto l'anno, abbiamo fatto una stagione straordinaria e ci hanno tolto un sogno. Per Cassano il Saggio mi sembra tanta roba, Pardo. Con tutto il bene che gli possiamo volere, soprattutto tu, il Saggio no, dai. No, il Saggio no, però in realtà è un altro personaggio, un po' si chiama dello stereotipo, no? Per esempio, da tanti anni, che è veramente diventato un polaro, anche quasi noioso in certi momenti, no? Se conduce proprio una vita casalinga a vedere partite in televisione. Insomma, non è, no, magari uno penserebbe a un campione di vita notturna, sì. No? Niente. Spesso sono un'organizzazione di giocatori, sicuramente sul quale Cassano è molto utile, perché la Sanz e il Parma. Sì. I quattro giocatori del Parma componenti del mondiale forse erano troppi, però comunque il Parma l'anno scorso ha fatto una grande stagione. Per quella giocazione sì, per quella categoria. Ti sento più, Pier, non ti sento più, mi sa che ti stai a imbarcare per i mille mari, quindi ti lascio andare a navigare. Pierluigi Pardo, ci sentiamo. Ecco, male, ti sento veramente male, ma ti abbraccio fortissimo lo stesso. Carlo, provincia di Belluno, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a lei, dica. Un saluto a tutti anche. Niente, io volevo ritornare su Nibali, se mi permetti, se posso darti del tu come un vecchio amico. Ma certo. Ecco, ti ho telefonato perché mi sento quasi tirato per i capelli su le affermazioni che sono state fatte su di lui, nel senso, se mi lasci 20 secondi, dimmi. Onore e gloria per sempre al grande Nibali come ciclista, però io ti dico, allora lui nel momento in cui in una tappa del tour arriva e con le dita mostra l'Italia, la bandiera italiana, oppure nell'intervista in cui lui dice sono siciliano, sono italiano, sono orgoglioso, poi Cassani che mi dice, o te nel giornale radio che ti avevo ascoltato prima, italiani togliete le bandiere del calcio, no. E io ti faccio sta domanda, in che cantone della Svizzera devo andare a festeggiare Nibali? Perché Nibali, a te non so se lo sai, te lo dico io, è residente in Svizzera, l'italiano siciliano. Alla firma del primo contratto milionario lui non ha fatto l'italiano come noi, che sulla busta paga da 1600 euro abbiamo 600-700 euro di trattenute e cerchiamo di mandare avanti questo stato derelitto. Lui milionario arriva sulle tappe al tour e fa il segno Italia, Italia, e ci lascia noi poveri a tirare avanti sta baracca. Poi un'altra affermazione, se mi permetti. Sì. E te fai, ma hai detto, come fai a non entrare nel cuore? Io parlo per me, non voglio. Sì, sì, no, stiamo parlando di soldi. Sì, sì, non stiamo parlando di soldi. Voglio parlare dell'intera umanità. Io parlo per me. Io come faccio ad escluso a livello atletico, che è un grandissimo, niente, come faccio ad ammirare un ciclista che si comporta così, che si va a fare la sua bella missina, se ne va in Svizzera a farsi la bella residenza e mi lascia a me a pagare, o a te, a Genta, o a Piera, per tirare in piedi o fare in modo che si vada avanti, cioè. Quindi Nibali non è italiano, non ha diritto di festeggiare da italiano da questo punto di vista, perché è andato all'estero a preservare i suoi soldi. Nibali è uno sportivo professionista che fa i suoi interessi, come ognuno di noi può provare a fare i propri di interessi, se abbiamo la possibilità, la legge non lo vieta. Detto questo, e la legge non lo vieta, credo non abbia fatto nulla di avrà fatto nulla di illegale o di irregolare. Non dimentichiamo però che noi siamo abituati a guardare gli sportivi sempre da un punto di vista: quanto deve essere esempio per i giovani, bravo, bello, oppure quanti soldi guadagnano. Non dimentichiamo che questa gente fa questa professione per mestiere. Dunque, ognuno di noi è libero di fare i propri interessi senza nessuna necessità di censura da parte nostra. Questo è il mio pensiero. Sandro Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Solo una considerazione, visto che sono di Bergamo, e rimbalzo subito all'amico delle Alpi di Belluno. Sono completamente in disaccordo. Perché? E arrivo, ecco, non entro nel dettaglio nella polemica eccetera, sono talmente in disaccordo e non era l'argomento che volevo affrontare. No, ma anch'io sono in disaccordo, se non si è capito. Li voglio talmente bene che se avesse avuto qualcuno che gli avesse dato due sberle 4 anni fa, noi avremmo un campione e lui sarebbe un uomo. 4 anni fa quando? Facciamo 3, dai. Ma no, ma quando? Così in generale? O per un episodio in particolare? Quando era ragazzo, invece di essere montato e di essere appoggiato da Raiola, che sarà un grandissimo procuratore, ma dal punto di vista umano, credo. Vabbè, chiuso. Il mio argomento era un altro. Qual è? Il ciclismo, e abbiamo sentito Davide Cassani, paragonato al calcio, non voglio entrare nella diatriba Tavecchio Albertini, ma la sola idea che venga proposto Conte come commissario della nazionale mi scandalizza. Perché? Perché è stato condannato per il calcio scommesse. A Bergamo c'è stato poco e a Siena ne ha fatti di tutti i colori. A Lecce gli ha fatto. Non entro nel dettaglio tecnico perché che un motivatore per me è isterico, però a me sta bene tutto. No, ma sarà anche isterico, ma è un allenatore che ha vinto gli ultimi 3 scudetti e che, questo è innegabile, Sandro, al di là delle simpatie, antipatie personali, delle bandiere che portiamo o non portiamo nel cuore davanti agli occhi, è innegabile come in questo momento sia un allenatore di punta del nostro calcio. Dai, parlano i risultati, ha preso a Juventus laggiù dov'era, l'ha portata a vincere 3 scudetti consecutivi e soprattutto ha costruito un grande lavoro. Questo è innegabile. Io metterei da parte discorsi relativi alle scommesse, a quel procedimento, a quel patteggiamento, a tutte queste cose. Cioè, proviamo a capirci, se è una questione di tifo, non si vuole Conte perché è juventino alla guida della nazionale, è un conto. Se è una questione etica, si dice Conte ha avuto del malaffare, allora quella è tutta un'altra storia che sta da quella parte lì, con il patteggiamento e con quello che il patteggiamento significa per la giustizia sportiva, perché non è come per quella ordinaria. Se non si vuole Conte perché è un isterico, questo è un altro discorso ancora. In questo momento, a mio parere, e poi il mondo è bello perché è vario, no? E ognuno ha le sue opinioni, è giusto che se le tenga, come prova a dire tutte le volte. A mio parere sarebbe in questo momento l'uomo giusto dal punto di vista dei risultati, del carisma e, come ho detto prima, del physique du rôle per guidare la nazionale in un momento molto complicato. Marco Como, buongiorno. Sì, buongiorno. No. A questo punto volevo rispondere all'ascoltatore di prima, Vincenzo, se non ricordo male. Anche il Contador, io abito Como, lo so benissimo, li vedo, risiede a Lugano. Ma sì, ma voglio dire, ma ognuno fa i suoi interessi. Appunto, io comunque lo sto già festeggiando, ma non sono scaramantico. E adesso sono a Milano e ho attaccato un bello striscione dietro il camion, targato Ticino, io sono italiano, vivo a Como. Qualcuno ha sorriso per strada e lo merita, perché io sono 36 anni che faccio ciclismo, ne ho 48, ho iniziato 12 anni, so cosa vuol dire stare in gruppo. so cosa vuol dire il freddo in bicicletta, non è paragonabile a nessun altro tipo di freddo, e tante altre cose messe insieme. Sì. È veramente una cosa, doping o non doping, è una cosa incredibile. No, non, facciamo non doping e la chiudiamo qui. Grazie Marco, grazie davvero. Franco Pietrini, autore di questo programma, Filippo Reggio in regia, Claudio Schiattoni in redazione. Ci sentiamo lunedì con tutti i convocati alle 2. Ciao.